Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il caporalato, una piaga che investe anche la nostra regione e soprattutto il settore agricolo. Fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, extracomunitari e manodopera italiana impiegata anche nella lavorazione dei vini di qualità. Tassi di interesse ai massimi in Europa, gli effetti sull'economia regionale, fra il rincaro dei mutui e la preoccupazione delle imprese per la recessione della Germania. Dall'interporto di Cervignano, dalla settimana prossima, partirà il primo collegamento ferroviario tra il nord-est e Belgrado. 750 km di distanza per mettere in relazione le regioni del centro-nord Italia e del nord Europa con i Balcani. L'Occidente sostenga la rivolta dei giovani iraniani per la libertà. Anche il sangue iraniano è rosso come quello degli altri popoli. Lo ha detto a Pordenone il celebre pianista di origine iraniana Ramin Bahrami nel primo anniversario dell'uccisione della giovane Mahsa Amini. A Pordenone Legge, protagonista oggi anche la scrittrice francese premio Nobel Annie Ernaux, che alle 18 al Teatro Verdi riceverà il premio La storia in un romanzo. C'è qualcosa che non va, è la frase dura, inaccettabile, che qualche volta il medico che fa l'ecografia di un feto è costretto a pronunciare. Annuncia una possibile malformazione. L'associazione ABC di Trieste da anni ha attivato un servizio di assistenza psicologica per le mamme e i papà. Basket, Trieste vince il primo derby con Udine della stagione e vola ai quarti di finale di Supercoppa. Clima già da campionato in un Pala Trieste riempito da 3.200 spettatori. Un pubblico fantastico per il general manager degli alabardati Arcieri. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. Il Friuli Venezia Giulia, terra non immune dal fenomeno del caporalato. Diverse inchieste lo hanno rilevato, ad esempio a Monfalcone, ma è presente anche in agricoltura, come evidenzia uno studio del sociologo Marco Omizzolo di Eurispes. Lì dove non c'è buona accoglienza, lì dove c'è emarginazione, si costruiscono bacini, uomini, donne, a volte addirittura minori che vengono in realtà impiegati illegalmente. Il caporalato è realtà anche in Friuli Venezia Giulia, dove manodopera irregolare viene impiegata soprattutto nelle aziende vitivinicole per la produzione di vini di altissima qualità. A denunciarlo Marco Mizzolo, sociologo Eurispes, a Udine per presentare il suo ultimo libro. È una rotta nel Veneto che è più stanziale. Nel caso del Friuli Venezia Giulia le vittime tendono ad avere un progetto di via di fuga, nel senso che ambiscono ad entrare in altre regioni o in altri paesi. Nel momento in cui diventano vittime di grave sfruttamento necessariamente restano vincolate. A giorni si terrà la prima udienza per i primi 4 arresti per caporalato nella storia della regione, effettuati a febbraio dalla Guardia di Finanza di Gorizia. 3 rumeni e un moldavo reclutavano nelle regioni più povere della Romania, 6 euro a giornata per lavorare alla potatura dei vigneti. Il capitano Antonino Ingrasciotta spiega perché le indagini nel settore sono così difficili. Non basta dimostrare lo sfruttamento, bisogna dimostrare anche che chi li sfrutta si approfitti di uno stato di bisogno. Per farlo ci vogliono mesi di lavoro, telecamere infrarossi, intercettazioni, pedinamenti, incrocio dei dati di posizioni lavorative. Enrico Sbriglia, presidente dell'Osservatorio regionale antimafia, indica che l'immigrazione clandestina e il caporalato sono strettamente connesse, ma una risposta solo securitaria non basta. Servono azioni di recupero nei confronti di queste persone. Stefano Gobbo, della FAI CISL. Un elemento utile potrebbe essere la rete del lavoro agricolo di qualità, una certificazione della legalità delle aziende. È fondamentale perché permette una collaborazione anche con le altre reti, quindi con le altre province a livello nazionale, e un coordinamento attraverso il governo. Seconda proposta, che è fondamentale altrettanto, ci sono dei processi aperti, le amministrazioni, le parti datoriali e sindacali si devono costituire parte civile nei processi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo l'ultimo rialzo deciso dalla Banca Centrale Europea per frenare l'inflazione, i tassi di interesse nell'area euro sono ai massimi dall'introduzione della moneta unica e gli effetti si faranno sentire anche in regione, in particolare per i costi dei mutui. Tra le imprese, poi, c'è preoccupazione per la recessione della Germania, a cui l'economia regionale è legata a doppio filo. L'inflazione spaventa ancora. In regione, nonostante la continua discesa, rimane sopra il 5%, spinta da alimentari, ristorazione e benzina. La Banca Centrale Europea giovedì ha alzato i tassi di ulteriori 25 punti base. Quello principale ora raggiunge il 4,50%. Potremmo essere a una soglia massima. Analizzando i dati sull'economia europea, i prezzi dovrebbero scendere, di conseguenza i tassi sarebbero al picco. Secondo le proiezioni della BCE, l'inflazione sarà del 3,2% l'anno prossimo, prima di tornare ai livelli fisiologici del 2,1 nel 2025. La Germania in recessione però preoccupa l'economia del Friuli Venezia Giulia, interconnessa a quella tedesca. Tassi così alti potrebbero avere ripercussioni sugli investimenti. Difficile invece prevedere un possibile nesso tra il costo del denaro e le esportazioni. Stefano Miani, professore economia, Università di Udine. Che essendo la nostra regione marcatamente dipendente dalle esportazioni, quello che succederà non dipende tanto dai tassi di interesse europei quanto dalla domanda estera, perché l'impatto del tasso di interesse sui costi dei prodotti che noi esportiamo c'è, ma è molto contenuto. L'innalzamento del tasso di sconto porta inevitabili conseguenze anche per le famiglie. I nuovi mutui diventeranno più cari, sopra il 6%, così come quelli variabili, erodendo la capacità di risparmio delle famiglie. Da un punto di vista generale, finché i tassi di interesse sono sensibilmente, come ancora oggi, inferiori al tasso di inflazione, se uno ha un debito ci guadagna, perché rimborsa meno di quello che ha preso, cioè paga un interesse negativo. Diverso è il discorso di dire se è in grado di pagare, perché se uno ha fatto il 2% il mutuo e era il 30% dello stipendio, adesso gli mangia il 50% dello stipendio, quindi è un problema di liquidità che può essere risolto allungato le scadenze. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra Italia e Serbia nasce un corridoio ferroviario che collegherà l'interporto di Cervignano a Belgrado, con almeno 3 partenze alla settimana di treni merci. Dall'interporto di Cervignano, dalla settimana prossima, partirà il primo collegamento ferroviario tra il nord-est e Belgrado, promosso dalla Alpe Adria S.p.A., un collegamento intermodale da 750 chilometri che fa dell'interporto di Cervignano un punto di rilancio verso le regioni del centro-nord Italia e del nord Europa e Belgrado, per trasportare manufatti prodotti nel nord-est Italia utili alla costruzione di grandi opere civili in Serbia. Il progetto è inserito all'interno della rete transeuropea di trasporto, costituita da infrastrutture ferroviarie, stradali e fluviali e porti interporti che compongono i diversi corridoi europei, come è stato illustrato durante la presentazione alla quale hanno partecipato il ministro Ciriani, il segretario di Stato serbo Mišić e l'assessora Amirante, che ha ricordato i 3,5 milioni di euro appena stanziati dalla regione proprio per lo sviluppo dell'interporto di Cervignano. Ha sottolineato quindi gli importanti interscambi con la Serbia, in particolare nell'export manifatturiero. Il nuovo collegamento con Belgrado, ha aggiunto Amirante, apre una nuova porta alla nostra regione riguardo alla capacità di essere un polo logistico strategico in Europa. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al Forum Risorsa Mare di Trieste c'è stato un grande assente, la biodiversità marina. È questa la posizione del WWF, secondo cui il mare è stato trattato solo come una risorsa da sfruttare. Il futuro dell'umanità dipende dalla salute degli oceani e della biodiversità marina, che garantiscono ossigeno, cibo, medicine, sviluppo e vita, dice l'associazione ambientalista. Eppure, al Forum Risorsa Mare, che si è tenuto a Trieste con la partecipazione della Presidente del Consiglio e di tutti i ministri con le principali competenze sul mare, la parola biodiversità è stata la grande assente. In un contesto in cui si parla di crescita, commenta ancora il WWF, non si può dimenticare l'ecosistema entro i cui limiti deve avvenire tale crescita. Limiti che sono già stati ampiamente superati nel Mediterraneo e in Italia. Cultura, andiamo a Pordenone Legge, sentiremo fra poco una panoramica su alcuni degli incontri e dei personaggi di oggi, ma partiamo dalla serata tra parole e musica che avrà come protagonista il maestro Ramin Bahrami, pianista di fama internazionale, tra i più grandi interpreti al mondo di Bach. Cresciuto fra Germania e Italia, Bahrami è di origine iraniana. Lo abbiamo intervistato nel primo anniversario dell'uccisione di Mahsa Vanessa Aminì, la ragazza di 21 anni, morta per emorragia cerebrale dopo il suo arresto da parte della polizia religiosa dell'Iran. Il suo omicidio ha innescato violente proteste che il regime ha represso, spargendo altro sangue. Di stamattina la notizia secondo la quale oggi il padre di Aminì sarebbe stato arrestato e poi rilasciato dopo essere stato minacciato dalle guardie della rivoluzione. E allora sentiamo l'intervista che a Pordenone stamattina ci ha rilasciato il pianista Ramin Bahrami. Questi nostri giovani chiedono le cose più normali, di essere liberi, sorridere normalmente, abbracciarsi, e in quel paese questo manca. E questo è un anniversario estremamente doloroso. Purtroppo le lotte vanno avanti con l'indifferenza più totale dell'Occidente, che sembra aver dimenticato quella parte così importante per la cultura umana, dove è nata la civiltà umana, la civiltà mesopotamica. Da parte del popolo persiano sicuramente c'è un grandissimo cambiamento, una sete di lotta e di rinascita. Il problema credo siano gli equilibri politici mondiali. Finché la politica mondiale occidentale non vuole aiutare questi giovani, temo che non sarà possibile un cambio vero e proprio. Il sangue iraniano non è meno rosso di quello di altre zone calde. Il popolo persiano è un popolo come quello tedesco, come quello russo, come quello ucraino, che ha bisogno di amarsi e espandersi. E purtroppo in quel paese, per via di tanti interessi, non riescono a venire fuori. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E proprio Ramin Bahrami alle 19 sarà al Capitol di Pordenone, dove dialogherà con Alessandro Milan. Protagonista di Pordenone Legge oggi anche la scrittrice francese, premio Nobel nel 2022, Annie Ernaux, che alle 18 al Teatro Verdi riceverà il premio La storia in un romanzo. Alle 19 la saggista Michela Marzano presenterà il suo ultimo libro Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa, allo Spazio Gabelli. E sempre allo Spazio Gabelli, alle 21.30, il giornalista Tony Capuozzo racconterà il suo volume Nessuno più canta per strada. Al Capitol, alle 21, salirà invece sul palco Sabina Guzzanti con Anonymous, vecchi rivoluzionari contro giovani robot. Alle 22, allo Spazio San Giorgio, il rave letterario Carne di romanzo, con Natalino Balasso e Massimo Cirri, che inventeranno un romanzo sotto gli occhi e le orecchie increduli dei presenti, chiamati a contribuire alla costruzione di trame e personaggi. E alle 21, al Teatro Verdi, lo scrittore Sandro Veronesi e il regista Edoardo De Angelis terranno una lettura scenica di Comandante, il libro di Veronesi da cui De Angelis ha tratto il film con protagonista Pierfrancesco Favino, in sala a fine ottobre, e che racconta il salvataggio di 16 naufraghi da parte di Salvatore Todaro, comandante della Regia Marina, che nel corso della Seconda Guerra Mondiale aveva affondato una nave nemica. Doppio appuntamento in Friuli Venezia Giulia per Irina Scerbakova, cofondatrice della ONG russa Premio Nobel per la Pace nel 2022, Memorial, attiva sui temi dei diritti umani e della democrazia in Russia. L'iniziativa è promossa dall'associazione Friuli Storia in collaborazione con Memorial Italia. Scerbakova sarà oggi alle 16 nel Centro delle Grazie di Piazza Primo Maggio a Udine. Tema dell'incontro, verità e propaganda dall'Unione Sovietica alla Russia di oggi. Domani l'attivista russa sarà invece a Pordenone Legge alle 10 nell'auditorium dell'Istituto Vendramini. Glauco Venier, ospite ieri e oggi a Roma all'evento L'Ape Rossa Estate Romana, organizzata dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Stasera alle 22 proporrà il concerto dal titolo Suite per Pierpaolo, insieme alla cantante istriana Alba Nacinovic e ai musicisti Francesco Diodati alla chitarra e Marcello Allulli al sax. La cantante interpreterà testi di autori friulani come Federico Tavan, Novella Cantarutti, Pierluigi Cappello e Amedeo Giacomini, che Glauco Venier ha reso canzoni. Durante questo secondo concerto saranno trasmessi vecchi filmati inediti del Friuli Venezia Giulia e interviste mai pubblicate a Pierpaolo Pasolini, in cui lo scrittore parla di identità. Ultimo evento questa sera per la rassegna Trieste Loves Jazz, in programma alla Sala Luttazzi del magazzino 26 in Porto Vecchio. Alle 18.30 appuntamento con il premio Franco Russo, in ricordo del musicista triestino nato per sostenere giovani artisti, che quest'anno va al pianista Alberto Rizzarelli. Ed ora la situazione meteorologica: cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sulle zone montane della regione. Ecco le temperature che sono state registrate alle 11. A Trieste 23 gradi, il mare è quasi calmo, a una temperatura di 24 gradi e mezzo. A Gorizia 24,5, a Udine e Pordenone 24, a Tolmezzo 21,5, a Tarvisio 20, a Forni di sopra 19, Piancavallo 16 gradi, su Lussari 10,5, sullo Zoncolan 11,5, a Lignano 23,5 gradi, a Grado 23. La temperatura del mare nelle due località è di 24 gradi. Queste le previsioni a cura dell'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA. Oggi pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sulla zona montana. Venti a regime di brezza. Per domani cielo variabile su tutte le zone, tuttavia sarà possibile minore nuvolosità sulle zone alpine più interne, specie nel Tarvisiano e sulla costa. Venti a regime di brezza. L'ansia in attesa che il medico dica cosa vede sul monitor dell'ecografo. È uno dei momenti indimenticabili per le donne incinte e per i papà. L'associazione ABC di Trieste da 5 anni mette a disposizione delle donne, ma anche dei medici e dei papà, un servizio di sostegno psicologico che si attiva quando vengono riscontrate malformazioni nel feto. C'è qualcosa che non va. Guardando lo schermo dell'ecografo, il medico a volte è costretto a dire queste parole ad una donna incinta e al suo compagno. È importante in quei momenti avere un supporto psicologico. Da 5 anni l'Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo Garofalo mette gratuitamente a disposizione una psicoterapeuta che affianca lo staff ospedaliero in modo strutturato. Giusy Battain, fondatrice e direttrice di ABC Onlus. Pensiamo che sia necessario inserire una persona professionale, quindi una figura professionale che possa supportare famiglie e anche medici nel momento della comunicazione di una malformazione. Quindi un momento davvero difficile per le famiglie, qualche volta succede anche in una prima gravidanza, e quindi è davvero un momento in cui l'equipe e anche la coppia può trovare una capacità di poter leggere cosa sta succedendo, soprattutto nella parte di emozioni che poi generano alcune decisioni, alcune comunque passaggi anche di gestione poi del nascituro, e quindi anche una forma preventiva di poter in qualche modo anche metabolizzare ciò che sta succedendo. In questi 5 anni sono state 737 le famiglie accompagnate da un'unica psicoterapeuta del progetto di supporto psicologico della diagnosi prenatale, Rossella Giuliani. Quello che posso fare è tenerli, sostenerli, io dico quasi in braccio, chiaramente non fisicamente, e aiutarli a riconoscere, a comprendere il significato delle parole dei medici, per riuscire a riconoscere chi c'è adesso per loro, quale bambino nascerà. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Garantire ai produttori e ai loro dipendenti un prezzo più giusto assicurando i diritti dei lavoratori è la sfida raccolta una 60 anni fa dal commercio equo e solidale. A Trieste la Bottega del Mondo di Via Torrebianca compie 30 anni e questo pomeriggio festeggia con ospiti locali e nazionali. Alle 16 letture senza confini, alle 17.30 equo per tutti, pratiche di altra economia a confronto. Alle 20.30 il taglio della torta. Siamo allo sport per il basket. Ieri sera la Pallacanestro Trieste si è aggiudicata il derby con Udine, valido per la Supercoppa di Serie A2, qualificandosi per i quarti di finale. 85-76 il punteggio finale per i biancorossi, in testa per tutto il match, giocato davanti a 3.200 tifosi in un'atmosfera già da campionato. E sentiamo il general manager degli alabardati, Michael Arcieri. Non abbiamo giocato perfettamente. Udine ha giocato molto bene, tirato bene, ma alla fine abbiamo fatto i giochi importanti per alla fine vincere la partita. Ma i tifosi sono fantastici, sicuramente. Tornato l'entusiasmo? Penso di sì, non ero qui l'anno scorso, però c'erano tanta gente stasera per un Supercoppa, pre-campionato, e non posso sentirmi, allora è una cosa molto bella. A che punto è la squadra, secondo lei? in percentuale per preparazione al campionato, quanto può migliorare ancora? C'è sempre spazio, non posso dare un numero, c'è Wilde che non c'era stasera, allora non vedo l'ora per vedere la squadra tutti insieme, ma stiamo facendo un po' di progresso ogni partita, quello è importante. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Udine in ogni caso non ha sfigurato, restando attaccata alla partita fino alle battute finali e dimostrando già un buono stato di forma in attesa del ritorno di Gaspardo. Il commento dell'allenatore dei bianconeri, Adriano Vertemati. Una grande atmosfera per essere a metà settembre, un livello di partita molto alto, a livello di contatti, a livello di intensità, a livello di importanza dei possessi. Forse anche un po' troppo presto arrivare al 15 di settembre a dover giocare con questo tipo di, chiamiamola pressione, che per intenderci, ma con tanti ingredienti che stanno al di là dell'aspetto preparatorio delle squadre, come è normale che sia a settembre. Cosa ha funzionato, cosa no? Quando abbiamo praticamente giocato condividendo la palla, muovendo la palla, creando buoni tiri, abbiamo fatto il nostro gioco, siamo stati bravi. Quando invece non lo abbiamo fatto, per merito anche di Trieste, abbiamo fatto meno bene. Dobbiamo solo capire come farlo con più costanza ad un livello di pallacanestro più alto come era questa sera. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Teatro Verdi di Trieste ospita oggi il giovane virtuoso del violino Giovanni Andrea Zanon e il celeberrimo violinista, violista e direttore israeliano Pinchas Zuckerman in un programma incentrato sui capisaldi del sinfonismo settecentesco che spazierà da Bach a Mozart ad Haydn, inizio del concerto alle 18. Una prima assoluta in regione è quella dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, fondata nel 2004 da Riccardo Muti e formata da strumentisti under 30 provenienti da tutta Italia, che si esibirà questa sera nella Basilica di Aquileia a conclusione del programma dei concerti in Basilica. L'orchestra Cherubini sarà diretta dal compositore e violoncellista Giovanni Sollima. Inizio previsto alle 20.45. Enrico Marini, fumettista svizzero di origini friulane, autore di saghe storiche come Le Aquile di Roma, ma anche del graphic novel del supereroe Batman, è il protagonista della nuova mostra in programma al Museo Internazionale del Fumetto di Pordenone. In attesa dell'inaugurazione, gli appassionati potranno incontrarlo dal vivo alle 18.30 in un'anteprima organizzata nell'ambito di Pordenone Legge. Sul palco Marini presenterà il secondo volume di Noir Burlesque, il suo personalissimo omaggio ai film noir americani degli anni 50. Parte oggi la seconda edizione del Festival Convergenze, format che fonde musica, arte, temi ambientali, scoperta del territorio e del borgo e della torre medievale immersi nel Parco delle Fonti di Torrate, nel comune di Chions. Dalle 14 in poi il borgo sarà accessibile con la possibilità di noleggiare gratuitamente biciclette per scoprire le aree naturalistiche circostanti. Si potrà anche accedere alla torre medievale Sbroiavacca, un sito raramente aperto al pubblico e che per l'occasione ospita la mostra Suggestione Artificiale di Freak of Nature, l'artista milanese che recentemente ha marchiato i negozi sfitti di Pordenone come opera di sensibilizzazione sociale. La giornata si chiuderà in musica con 4 concerti, tra cui alle 22.30 l'esibizione della vincitrice del premio Tenco 2023 per gli artisti emergenti, Daniela Pes. Le rubriche della TGR da domani alle 6.05 su Radio 1 riparte Est-Ovest e poi alle 7.17 sempre su Radio 1 la nuova rubrica TGR Regione Europa. Domani mattina alle 8.50 dopo la prima edizione del giornale radio andrà in onda Vita nei Campi e sentiamo l'anticipazione della puntata. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani parte con il furto delle mele sperimentali all'Università di Udine, un danno per la ricerca. A seguire la storia di Angelo Floramo che ci propone di dormire una notte in vigna, esperienza sensoriale ed evocativa. E ancora, per la rubrica dedicata alla conservazione e trasformazione alimentare, la scelta, cura e gestione dei vasetti, per quella dei sommelier una serie di consigli per ottimizzare la carta dei vini per l'abbinamento del cibo e nella rubrica dei fiori di scena gli astri, meglio conosciuti come settembrini, una margherita che impreziosisce in questi giorni i nostri giardini. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E da lunedì 25 settembre ripartono su Rai 3 alle 7 del mattino Buongiorno Italia e alle 7.30 Buongiorno Regione. Ben ritrovati. Dal 25 settembre tornano Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, le rubriche del mattino della TGR. Da lunedì al venerdì con Buongiorno Italia dalle 7, l'ultima ora, la cronaca, la panoramica sui fatti nazionali con collegamenti con le redazioni regionali, la rassegna stampa e il meteo. Con Buongiorno Regione alle 7.30 informazione locale e di servizio, le inchieste, le curiosità, le vostre segnalazioni e le buone notizie. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Da lunedì 25 settembre, dalle 7 su Rai 3. La rassegna teatrale Antiche Dimore porta in scena stasera a Tolmezzo al Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani lo spettacolo Le Levatrici della Carnia, che si snoda sul filo della memoria legata alle testimonianze e al vissuto della cultura materiale rurale delle donne della Carnia tramite i racconti delle levatrici condotte e dei racconti orali tramandati da generazioni. L'inizio alle 20. Inizierà alle 14.30 al Polisportivo Comunale di Fiume Veneto la Festa degli Sport 2023. Durante il pomeriggio si susseguiranno gare ed esibizioni con la possibilità da parte degli interessati di provare gli sport e toccare con mano l'attrezzatura sotto la guida di allenatori e istruttori. Comizi d'amore 2.0, docufilm realizzato dall'associazione Carta Sporca dedicato ai temi dei rapporti sentimentali e della sessualità, sarà proiettato questa sera a Trieste alle 19.30 al Bar Caffè Knulp. A seguire un dibattito aperto al pubblico sulla questione: sta davvero funzionando il cui mediaticamente e pubblicamente si trattano questi temi? E con questo abbiamo concluso questa edizione del nostro giornale radio. Sono le 12.56 minuti e 20 secondi. L'assistenza tecnica è stata garantita da Pierpaolo Zucchi e da Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Per ora dunque è tutto. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 14.30, l'orario del sabato, su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Daniele Lettig e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.